pelle. Praticamente ho speso 70 euro, mi ha fatto prendere queste pastiglie da dargli una volta al giorno, in più questa pomata la mette nell'orecchio e poi glielo dovevi massaggiare, la verità gliel'ha passato, c'era pus dentro l'orecchio. Un'infiammazione, ma la prima cosa che devono fare è l'esame del sangue, quella è la cosa più importante di tutti, perché ti dà tutti i valori, se ci sono delle infezioni e cose del genere, se c'è una cosa grave lui se ne accorge immediatamente e te lo dice. Se no, se è una cosa visibile con un'ecografia lo puoi fare, con un prelievo di tessuti, però cacchio, i cani bisogna stare attenti, cioè non farli soffrire gli animali. Per me la prima cosa da fare è l'esame del sangue, come hanno fatto al mio, e ce ne sono subito accorti. Io non sono medico, però lo dico per esperienza personale, cosa è successo. Poi quando fanno l'esame del sangue si rendono conto se c'è qualche anomalia di qualcosa, tanto si vede subito, e poi a quel punto ti dicono o è questo oppure è un'infezione dovuta a qualunque altra cosa, ti possono dare un antibiotico. Con l'antibiotico in una settimana te lo rimettono in piedi il cane. Ma tanto non vuole niente, se quanto glielo faranno col coso, come si chiama, con la flebola. Sì, non lo so, boh. Ripeto, io non sono del mestiere, però qualcosina l'ho vista. Okay, mio fratello cane ne ha avuto una quindicina, lui molte volte da lui, ogni tanto ce n'è uno. I cani migliori sono sempre, ricordati, i bastardini, quelli che ti durano una vita e sono indistruttibili. Quando sono cani di razza sono troppo delicati. No, ma il mio alla fine è un meticcio, la roba non è puro puro, Il mio era bastardo di padre e di madre, proprio un randaggio del tutto, vabbè. Poi sono cani intelligenti, affettuosi, guarda, io dico, dovendomi prendere un cane, non me ne prendo, perché in casa non si tengono. Se c'è una campagna, nel senso che ci vivi, tipo mio fratello che lui vive in campagna, dai. Lì sì, di cani me ne avrei messo, ma sempre cani randaggi, mai cani di razza. Tu non hai quanti ne sono morti di cane a lui, ma decine ne sono morti, tutti super pedigree, cosa, più razza erano e più prima sono morti. Quello più messo male di tutti, che sembrava il più messo male di tutti, ce l'hanno tanti anni, però tutti i pastori tedeschi che erano tutti col pedigree, quelli della finanza, che mio zio glieli faceva avere, quel cane proprio d'addestramento, che di cucciolate famose, tutti morti. Vabbè, muoiono i cristiani, non muoiono gli animali, purtroppo. Prima o poi, guarda, prima o poi arriva la giornata brutta, arriva, e come ci arriva. Vabbè, dai. Cerchiamo di essere positivi, speriamo bene, dai, ti faccio gli auguri sperando che non sia niente di grave e che ci sia una malattia, nel senso che si possa risolvere, se no purtroppo così è la vita, prima o poi dovrà succedere, in qualunque caso. Ok, facciamo vedere se è rientrato, vediamo se è rientrato Riccardino, che poco fa si era allontanato. Ci sei Riccardino? Era preoccupato, se ha avuto problemi col capo. Di nuovo. Mi dispiace, cacchio. Adesso c'è un difetto poi strano, che dice di scompare il display, deve spegnere, scacciare A più B e si riaccende. Poi dura un pochettino, poi però guarda che magari non c'è la batteria al tampone dell'apparato, ma cacchio, uno che vende un apparato il difetto lo deve conoscere. Quando sento queste cose mi dà fastidio. Non so, un casino roba. Con questa roba elettronica è un casino veramente. Sì, ma chi l'ha venduto? Se c'è il problema, dici, guarda, attenzione, mi è capitato questo e quest'altro. E mi dispiace perché era troppo entusiasta Riccardino, cioè proprio appassionato, non vedeva l'ora di vederlo, di provarlo. Speriamo che non sia niente di grave. Adesso anche Fabrizio gli dovrà dare uno sguardo. L'altro Fabrizio non ne ha cavato più di quello che gli aveva dato, perché c'è una scheda che non si trova, eccetera, eccetera. E purtroppo non mi vale la candela aggiustarlo, un 4,30, per quello che costa ci spendi più soldi che ripararlo, a quel punto si ce lo vende come pezzi di ricambio. Questo qua però era nuovo, detto da lui, non è neanche stato mai aperto, infatti in AM va con 20 watt, non ti dà la piena potenza, ma non è stato tagliato col ponticello del Dio. Ma chi lo sa, roba? Casino con questa radio, è un casino. E tu adesso lo stai utilizzando? 2009 con le MP4. Questo è il nuovo che ti arriva? Sì. No, una bella radio, va benissimo, bella, mi piace. Questo è tranquillo, è stato fatto quattro lavori. Tipo, non c'è proprio un graffio. In faccia di benissimo si graffia, Allora, posso essere sincero, ci c'ha graffi, non l'avrei preso, l'avrei preso nuovo. Perché non stavo comprando un nuovo. Ma scusa un attimino, quei pannelli che ti ho verniciato sono di questo apparato? No, del Typhoon, di quello del Typhoon mi ha avviato tu tanti anni fa. di quello lì. E dimmi una cosa, ma perché provi bene a voltare? No, vabbè, come si inventa, ma me lo tengo, non me ne frega niente, no, non è che mi servono soldi, però non... Me lo tengo, perché sono introvabili, io l'ho messo in vendita, ma poi non è vero. Te ne dico, Luca, sempre un apparato di riserva, è una bomba quello lì, funziona, no, perché se abbiamo fatto lo scambio che te l'abbia dato io non mi interessa, però esce benissimo, una radio spettacolare, funziona bene, spinge bene, per cui è sempre averne una riscossa non fa male, perché poi vai a cercarlo e ti costa un bel dinaro, ma ti danno un apparecchio che non funziona bene, con problemi, quello almeno sei sicuro che l'hai usato tu come con tutti i pregi e con tutti i difetti. Sì, vabbè, ma sai il flash, ma non lo do, mi interessa, non... Ci rimane dove? Lo so, poi quanto lo stavi dando? Non penso tipo sia ricco, Mari. Quei soldi poi ce l'hai, te li spendi in altre cagate che non ti serve. 200 spedito. 200 euro? Mi hanno detto che non si rivale. Non ho capito. Mi hanno detto che non si rivale. Vabbè, diciamo un po' caro mi sembra, perché io dico sempre aggiungi qualcosa e poi ti prendi qualcosa di meglio, perché adesso con 140-300 euro lo trovi e c'è già qualcosina di meglio, però la gente piace quel tipo di baracchino, magari te li possono anche dare. Se non gli piace, pazienza, non è, ripeto, non è che non sto vedendo perché mi fanno bisogno dei soldi. Mi sta difettando lo Smith, dai, mi sale, scende, sale, non vuole capire cosa è. Vorrei capire, non penso che sia lo Smith secondo me. Dovrei comprarne uno di Smith e provarlo. Ma non è Smith per... Sì, ce l'ha, però è difettoso, sta difettando, vabbè, sale, scende, sale, scende. In trasmissione, in ricezione è perfetto. Magari è salato, lo sai, anche a Danilo, gli ho dato io, dico, lo sai di che cos'era? Qui c'è il Saturn Echo, c'avevamo una piastra di registrazione, mi sembra a Kai, con i V-meter. L'ha preso, gli ha piazzato quei V-meter, una bomba. A chi? Danilo, ho capito, sì. Quello famoso del cavi, dai, diciamo così. E gli ho dato due, gli ho detto, mica lui Dani, pigliati questo, se riesci a farti il coso, dice, ce l'ha piazzati, perfetto. E così che usciva male quel Saturn Echo, dice che Santiago 3 è arrivato, Santiago qua, dice, dai Tommy prenditi qua, dice, siccome sono un po' grandicelli col lago bello, perché quelli delle piastre di registrazione sono molto, sono tarati in decibel, per cui sono molto precisi rispetto a quelli dei baracchini, dice, l'ha piazzato, dice, perfetto, dice, Santiago 9 proprio ti si ferma bene, eccetera eccetera, ne ha tolto la parte dove ci sono i decibel e li ha rimesso come è stato, ha utilizzato solo la parte mobile, diciamo. Aspetta Robè, mi ha chiamato la mia 25, sono al telefono un attimo, scusa. E io dai, mi allontano anche io 5 minuti, dai, ci sentiamo dopo magari. Che qua, Natanello, ci sei? Hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio! 5, 6, segnale, 5, tondo, tondo. Vabbè, già va bene così, da, adesso. E beh, ce lo credo, a Luglia. Hola. Chi è, avanti. Ma di Natale, come sei, ma ciao a tutti. È Giuseppe che ti sta chiamando. Giuseppe. Avanti, chi è? Antonio. Sì, avanti, buonasera, chi si richiama? È vero. Luca. Tu. Come ti arriva adesso? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Segnale 9. A casa, sì. A casa, sì, sono a casa. Sta arrivando bene, dai. Ma la radio com'è, buona, sì, o rimane sempre opaca? Insomma, non è che c'è questa grande radio, ma già va bene, dai, già accettabile. Ah, già va bene. E tu bene mi ascolti a me? Cazzo, ma arrivi 9.40 qua, eh. 9.40, già girato. Dove sei tu, che zona sei? 9.30, con i picchi positivi. Ma in che zona sei? Che zona sono? Io sono in zona del monte, cambio. No, del monte dove più o meno? Non voglio andare via, che più o meno? Sotto casa tua, Luca. Sotto casa mia? Sotto. Ah, sotto. Per esattezza io abito nella zona del Monte Curru, dove c'è il palo sesto, cambio. Sì. Sì, ma guardalo, allora. Tutto ok? Ehi, ja, tutto ok, ciao. Compare mio, ebbè. Sono qua, non ti preoccupare, sono qua. Mi stavo già preoccupando, ho detto, ma c'è il compare, non c'è anche me, non strano. Cosa? Non ho capito un tubo. Ma, mi stavo preoccupando, ho detto, c'è il compare, non c'è, ma non c'è un talento. Quello sì, è vero, la verità è, certo, quello è poi, a parte compare, non c'è problema. Io la appoggio. Perché ho sto qua? Dillo tu. Talmente alto non si capisce neanche, ma quello che dice, non riesce a capirlo, chi è? A guardare. Esci malissimo, ma male, sei troppo alto di radio, non si comprende nulla. Cazzo Mari, allucinante, nemmeno la figlio di te, esci un bel male, abbassa. Mi sembra già un botto. Sto uscendo malissimo, non ascolto male, non so voi, Ciao ragazzi, sì, anche io ascolto male, anche fuori frequenza mi sa. Ciao Fabio. Fabio no, neanche persona. Attenzione, canale 10. Avanti, avanti, poi si lascio, avanti. Sto facendo una prova, ho cambiato alimentatore, perché forse era l'alimentatore che stava andando male. Scendo bene, non c'è problema, non ti preoccupare. Eia, chi c'è rimasto? No, qua arriva più basso di prima, Sto arrivando più basso. Sì, rispetto ai segnali di qualche giorno fa. Sì, amico mio, il signor Portante c'era. Alessio, non sei uscito. Sì, capi. Oh, cosa c'è? Allo passo? Cosa? Allo passo? No. Attenzione, Riccardino, mi ascolti a me, cambio? La Leoncino che ti super saluta con la buonasera. E buonasera, sì che ascolto, c'è un po' di questi B. Comunque ciao Torino, ben ascoltata. Ah scusa, ho sbagliato quello all'altro, amico. Tu sei di New York, ben ascoltato. Ma è Torino. È Leoncino. Lo so, stavo scherzando. Roberto è scomparso? È qui, non ti preoccupare. No, era per sapere se il segnale era diverso. Leoncino. Ehi, dimmi, ricordi, no, come stai? Bene, sto. Bene, ma bene come? È un po' così, perché ho un problema alla radio. My radio. Ah, ho capito. Ciucucciù. Ciucucci. Meno male già mi ascolti. Era ora. Veramente era ora. Adesso mi senti bene o mi senti male? Male, molto male. Come senti? Sato, tutto come sei. Come sono io adesso? Saturissimo, ti capisco malissimo. Radio meno 5, Santiago, non ne parliamo. Ok, allora stacco, non c'è problema per quello. Allora stacco tutto. Qual è il problema? Adesso va meglio? Adesso c'è anche un po' di QSB, ti ascolto male. Perché c'è quello, è per pagazione, non per altro. Mazza quanto stai esagerando! Sì, stai andando benissimo, bello bello. Cos'è? Chiara. Chiamalo. Fai un po'. Vediamo se arrivi, là. Non ho capito. A chiamare un po' l'amico. A chi? A Riccardino. Eia. Riccardino. Vabbè. Raccontami cosa hai fatto oggi. Oggi, mi sono alzato, ho fatto colazione, stavo cercando di riparare una radio, video lezione, radio, e adesso sono qui. Ti posso chiedere una cosa, quanti anni hai, Riccardo? reagisci bello bene. Ma non mi dire che sei il nipote di Antonello, no? Difendi chi Antonello? Cos'è? Non ho capito. Difendi da chi Antonello? Da me, che altro è? E se che differenza, grazie a Dio. Io ho 56, quindi se io vuoi tu, ma cambia la cosa. Non ti ho capito, cosa? Ho detto cambia la cosa, 56 anni ce l'ho io. Tu ne hai 14 o 16, se non è che ricordo. Cambia la cosa. Giuseppe, ho capito, Giuseppe, dimmi tutto. Riccardino, e adesso come mi ascolti, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Santiago 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'è ancora un segnale che riesce ad arrivare sul podio a 9,40. E chi è? Chi è questo? E tu sei tra gli ultimi, tredicesimo. Tu sei? Il primo sul podio mi sa che è torre di controllo. Non ce n'è torre di controllo qua, certo, lo sai, se non ce n'è. Siamo tutti quanti uguali. È sul trono, il signore. Già lo so, già ho capito che sta dicendo. Penso che l'abbiamo capito tutta la banda cittadina, tutti i radioamatori. Già lo so, già lo conosco prima di te quella persona lì, non ti preoccupare. Bene, andiamo avanti. Antonello, chi sei? Attenzione, Roberto, se mi copi, cambio. Io non lo sai che per gli amici sono Robertino. Ma io parlo di Roberto del Quadrato, hai capito? Non tu, Riccardino. Attenzione Roberto, se ascolti Alfa 21 da questa parte. È calata la propagazione, non si ascolta più Roberto a Sassari. Ma me lo dici da dove stai modulando, Riccardino? Che zona sei? La zona Filigheddu. La zona? Filigheddu, zona Filigheddu. Il filo di Geddu. Ah, ho capito, sì, ho capito. Ora. Avvisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Adesso sta entrando bene, Antonetto. Sì, sta arrivando bene, la verità, sì. Sei a posto. Stavo parlando più che altro due minuti con cosa, con una persona in PMR, lo sai. Due minuti che risponde a lui. Ho capito. Ok, a fra poco là. Ehi. Perché ehi? Aspetta un attimo, c'è da parlare. Vengo subito, due secondi. Ma io sono qua, io già ho acceso il garattino, non c'è problema. Io rimane acceso. Ma lo vuoi chiamare, io sono qua. Ok, vabbè, ti ringrazio. Prova a fare una chiamata a Roberto. Roberto, Quadrato, Escuti Italia, ti sta chiamando in frequenza. Ma sta che non ti sente, perché sta facendo una bella carichetta. Davvero? Ma tutti spariti siete? No, non siamo spariti, almeno. Vabbè, che fine hanno fatto? Io sono qua, ma fate anche di là, comunque sia, come già lo conosci. Ho capito, buon po'. Sono qua, a parte dietro di là, ti ho detto, lo conosci anche, Abietto. E di là dove? Il PMR, lo sai. Vediamo se mi senti anche a me, aspetta. Ok, là, che problema, sono là. Oh, stavo chiamando, non mi sentivi, Antonio? Oppure sento male, chi sei? Sì, Franco, non so. Perché sei così basso, Franco? Sto usando questo fatto, dai. Aspetta, per se riesci le orecchie a questo. Ora, ora. Aumentato? Sì, sì, no, sei quasi 9, quei picchiari li hanno veri, però in mezzo al QRM, io ce l'ho sempre alto il QRM, da 7 sei passato quasi 9. Capo, dai, no, sto usando un barettino, sto usando con i tuoi bassi, ce li ho regolabili, ma questo qua l'avevo passato, perché ero in banda, capito? E stavo usando la polignere. No, ragazzi, ascolto bene, Radio 5, Santiago 8, 39, 5 di radio. A me mi ascolti bene, mi tiri fuori. Sì, vabbè. Benissimo, al 100%. Allora, io sto usando un precedente Lincoln con l'MC60. No, una bella radio. Il Lincoln è un grandissimo apparato di trasmissione, uno dei migliori in assoluto. Poi se rimetti un bel turner, vabbè, tu stai mettendo il 60, ma lo stai alimentando il 60? Sì, con due batterie, due stilo. Ah, tre volte li stai dando? Ci vogliono quelli, c'è sotto, all'interno c'è la sede apposta per lui, per loro. No, pensavo che ci volesse più tensione per alimentarlo, quindi con tre volte riesce a farlo modulare, buono a sapere. K, sì, che ogni batteria è 1,5. Sono prezzi, sì. No, ti ascolto bene, bella chiara, pulita. Non pensavo che, forse è la prima volta che sento un baracchino con abbinato con un MC60. Capo. No, io, vabbè, adesso ce l'ho un po'. C'era un periodo, l'ho fatto Tino e mi ho fatto andare così per farlo, l'ho fatto e mi è riuscito. Santiago 1 c'è da me, Franco. Cappa, è radio? La radio è buona, buona, abbastanza buona. La segnale è 1-1-2, è modulato. Cappa, Luca, segnale relativo. Ehi, andava bene, dai. Fai 6-5, dai, segnale. Lo smette da regolare. Non lo lascio così, non tocco niente. Anche lo dici, già, in chi va a scacciavittare, fa. Lo lascio così. Interessante di sentire le persone. Poi se arrivano 2-3, va bene lo stesso. Cappa, l'importante è la radio, poi il resto, vabbè, siete abituati a sentirmi sempre a livelli di 30 watt, dai, con K, no, quello l'ho staccato, perché deve venire una persona a vederlo anche, perché se lo porta via, me lo vendo, è buono. Quanto lo stai dando, Fran? 4 lo sto dando, 680 entro. Ma con il microfono anche 60? Sì, con 60 io ho 4,50. Sì, e dimmi una cosa, ma tu adesso stai utilizzando il 60 col presidente, ma ne hai altro il 60 tu? Sì, ne ho due. Infatti ho detto, cioè che sbagli il cacchio di dare l'alimentazione, vabbè che le connessioni sono diverse, a quanti poli è quello? A 6 poli? A 5 poli, qua sì mi sembra, sì, sì così, sai che non me lo ricordo. No, nel 6 utilizzati 5, tipo come l'Intec eccetera eccetera, no, dico se vai in autopoli pure quello, cacchio attacchi con l'alimentazione e lo sfacci il K. K, no, a 5, a 5. Ma tu 60, quando separatamente lo prenderesti? Lo vorrei dare più con K. Allora, vabbè, se uno non lo vuole, eventualmente fammi sapere che c'è un prezzo ragionevole, naturalmente. Cappa, vediamo, dai, vediamo se non lo vuole, se lo posso anche dare. No, perché devo fare un lavoretto, nel senso, ne tengo uno originale, un altro devo fare una modifica. Cappa, dimmi che ti do questo qua. Vabbè, l'altro l'ho comprato da poco. Ma è buono, è in ordine come metto? Sì, è buonissimo. Come lo senti? No, parlo esteticamente, Mario Gaffuno, tutto bosciomare, ne ho visto uno a poco, ma non voleva visto, tutto rovinato, tutto ossidato, adesso era in mezzo all'umidità. No, non è in mezzo all'umidità, questo quando lo uso lo metto in posti tranquilli, è coperto anche. Ma il tuo numero di telefono chi ce l'ha qua in frequenza? Quasi tutti. Anche Claudio c'è. Cappa. eventualmente così se dobbiamo fare qualche conversazione privata, magari lo chiedo a Claudio se eventualmente ci mettiamo d'accordo. Non c'è un problema, vai, adesso vedo questo qua, se no se si porta via, che è quello, l'avevo detto per telefono che si portava via, però vediamo. Hai marcato K o marcato trio? K. Ok, io quello che c'ho io, il 60 non c'ha la regolazione sotto, dice che non l'hanno mai visto, questo, me l'ha venduto Claudio tanti anni fa, dice guarda, è la prima volta che sento che il K non ha, mi K, che l'MC60 non ha la regolazione sotto. Ma a dirti la verità non ne ho visto neanche uno io di quelli lì che non c'hanno la regolazione sotto. I miei ce li hanno tutti e due, le regolazioni sotto. Oh, io non me ne ero mai accorto, me l'ha fatto notare Claudio, ha detto guarda, regola qualcosa sotto, se no no, cosa non è possibile, ha detto il mio non è, non è possibile, non l'ho mai visto, cioè, ma com'è che me ne ha dummi, cosa vuol dire, magari non te ne sei accorto. Magari non se ne è accorto, oppure non se lo ricorda, è probabile. Io la verità non ho mai visto quello lì, ho sempre tutti quelli che ho avuto, addirittura tanti anni fa ne avevo comprato anche uno nuovo che avevo comprato e c'aveva anche quello la regolazione sotto, c'avevo, e infatti poi mi avevo venduto tutto, mi avevo venduto e poi me ne sono tutti ricomprati. E questa radio come la senti? Buona. Questo non è l'MC60, è un altro microfono, tieni presente. Ma dove lo stai usando? Su un K? Eia, su 44. E allora c'è o l'MP4 o l'MP5? No, non c'ha niente a che vedere con quelli. È un Adonis questo, il 908, quello con l'equalizzatore. Mario vuole regolato meglio, quando c'ho tempo mi ascolto con un altro apparato serio e faccio le prove. L'Adonis, sì, lo conosco. È buono, va bene. Modulazione è bella chiara, perfetta. Ma tu mi stai ascoltando con l'altro parlante del baracchino o esterno? No, mi sto ascoltando con Kevon SP430. No, visto che mi stai ascoltando con l'altro parlante esterno, adesso mi fai le prove a lunga distanza. Cosa cambia? Metto l'altro apparecchio, l'altro microfono e mi dici cosa cambia. Ecco! Un attimo. Davvero? Davvero, Luca? Che è entrato, avanti prego. Sì, Alfa 21 a questa parte. Ecco, facciamo Alfa 21, ben ascoltato. Ecco, l'ascolto. E poi gli altri li ha sentiti chi sono, sì. Ciao Riccardo, ben sentito. Allora, memorizza, visto che sei lontano, questa modulazione 1-2-3, prova radio, canale 10, 27-0-7-5. Adesso mi metto nelle stesse distanze con un altro microfono. Questo è l'altro, 1-2-3, prova, canale 10, 27-0-7-5. L'altro è più, c'ha più acuti, è molto, molto più bello come microfono, è più forte, molto più forte. Questo c'era più facile. Ah, quindi l'altro spinge di più. Guarda, qualcuno ha detto che non era amplificato quello che c'era prima. No, non è amplificato, giudizio. Guarda, è ridicolo, molte volte i giudizi della gente mi fanno ridere. Ma io lo ascolto molto più alto di questo. Confermo, l'altro è più forte. Comunque c'è un break, avanti. Mi è sembrato Gianni doppio rum. Gianni, ci sei? Ehi, allora, buonasera a tutti. Ho fatto un break da poco fa, ma forse non mi hanno sentito. Scusa Gianni, non ti abbiamo sentito probabilmente. Avanti. Ehi, allora, buonasera a tutti. Non c'è problema. Buonasera Gianni. E questo è il solito, quel bel solito. Di nuovo quello di prima, quello che dite che è un po' più forte. Sì. Io lo trovo più forte quello lì. Riccardi, risolto. Sì, era il signore alimentatore. Dai, mettatelo a giudizio, guarda, l'altra volta ti ho detto, buttacelo via con l'alimentatore. Vabbè, non so cosa dirti. Ma sei più basso di segnale, lo sbaglio. Ho dovuto abbassare la potenza, non regge molto questo alimentatore che sto usando uno ZG adesso. Stai attento, dai. Ma cos'è, il trasformatore o quelli switching? Non lo so. Appeso, te ne accorgi, molto pesante. Sì, è un bel pesante. Sicuramente ha trasformato. Vai Gianni, avanti a te, poi fa girare per Luca e poi per Franco. Io aspetto la prima che mi si è staccata una spina, devo andare a attaccarlo, un secondo solo, poi riprendo. Eia. Luca, invece dalla parte tua, a parte l'amplificazione, come lo senti tu, di differenza, più acuto? Sì, è molto più forte, più spinto, là. Io qua non mi sono appentato a regolare, l'abbiamo fatto con Claudio così a orecchio, però voglio farla io personalmente col ricevitore, quello professionale, e vedere tutte le prove di lì, perché questo c'è una varietà di cose, di regolazioni, è proprio al minimo minimo qui, compressore a media potenza, perché c'è basso, medio e alto, l'ho messo a metà, e l'equalizzatore è quasi tutto attenuato, non c'è niente. Ok, riprendi Franco per te, avanti. Capo. Ma probabile quell'alimentatore ci sia qualche resistenza, qualche transistor, qualcosa che si sia bruciato, se ci ha perdita. Allora, aspetta, attenti, l'altra volta con un baracchino gli dava 20 ampere di assorbimento, ho detto, ma che cavolo, c'è qualche problema? Capa, ne ho uno io, è piccolino, va bene, 12 ampere, HP 12, quello lì, e se ne scende di potenza, a volte scende, a volte sale, non si capisce più niente, infatti l'ho messo da qua e non lo sto usando più. No, io switching mai visto e mai ne tratterò. Io ho due alimentatori, uno da 30 ampere continui e uno da 80 ampere continui, senza vento e senza niente, e ne tira fuori più di 100 quelli effettivi di picco. È proprio sovradimensionato, ma pesa 20 kg. Ma guarda, io ne ho uno da 40 di picco, 45, e switch lo stesso, però ti dico che è una bomba, ce l'ho qualche anno, ce l'ho adesso, e l'avevo comprato, usato, ma è una bomba, e funziona perfettamente. Eccomi qua. No, questo mio l'ho trovato d'occasione un paio anni, sai, 15 anni fa, dalla CEP. La CEP forse sono i migliori alimentatori che ci sono in commercio, basta vedere cosa costano, più di 500 euro costa. Ma è una bomba, non ha nessun coso, nessun avvento, niente, perché teoricamente con i componenti che c'ha può dare più di 100 ampere quell'alimentatore, proprio lo stanno facendo lavorare al minimo, loro dichiarano 60-80 ampere, ma ne dà più di 100, proprio fai conto, non ha vento, non ha niente, se vedi il trasformatore ti metti le mani in testa. I transistor sono di quelli MOSFET che ti stanno facendo dare neanche al 50% come potenza. Avanti Gianni. C'è l'evoluzione, adesso ci sono i switch, costano poco e vanno bene, io usavo una fucina di avere alimentatori, c'ero anche io col trasformatore interno, poi sarei un trono di alimentatori per 2 ampere. C'è un alimentatore da 2 ampere che pesa un trono della GBC. Sono molto meglio quelli switching, che vanno benissimo, io non ho mai avuto problemi, ne ho uno da 50, uno da 35, uno da 25, vanno tutti bene. E prova a sovraccaricarlo e poi mi torni la risposta se vanno bene. Sovraccaricato, c'è la luce, c'è l'apparecchio, c'è l'ideale, c'è tutto quanto in quello da 50 e non ne succede nulla. Il mio va bene, non ho mai trovato da dire niente. Vabbè, quelli là che se tu sei rimasto le cose un po' arretrate, dai, adesso c'è l'evoluzione, le cose, bisogna essere un po' evoluti anche lui. Cara, ti posso garantire, il migliore alimentatore switching neanche vicino al migliore alimentatore non switching, per tutte questioni di rientro eccetera eccetera. Se mi parli di qualità, di peso, stabilità, niente da dire, però sono delicati. Se tu prendi quella 30 ampere, gli dai 31 ampere, tu gribi, te lo garantisco. Allora, praticamente io ne ho uno della Italia Elettronica, che sono uno dei migliori che ci sono in assoluto. L'avevo pagato 90 euro ed era da 10 ampere, ma 10 ampere li dà tutti. Adesso c'è la Franco California, quello ti può dire come va quell'alimentatore. Lui lo usa per fare il coso, per fare l'argento, perché lui mi sa che ci fa questo liquido là, è praticamente perché è allergico. Lo fa con quell'alimentatore lì, ma ha detto guarda, va troppo bene, glielo ho dato io quello lì. No Daniel, allora non capire, non mi sono spiegato bene, lo switching è il futuro, è come transistor con le valvole, però come robustezza, se tu prendi un alimentatore da 20 ampere a transistor e chiedi 30, al limite si siede, scalda un pochettino e finisce lì. C'è la stessa cosa lo fai con un alimentatore switching e non ha le protezioni contro la corrente, contro gli assorbimenti, lo sciogli, uno sbatto di corrente, un fulmine, non dico un fulmine, una scarica diciamo vicino, le scarica lo sai quanto ne risente. Poi non parliamo in alta frequenza dei problemi che ti può dare quando inizi a sollevare di potenza. Infatti i radioamatori quando usano potenze grosse utilizzano sempre a transistor, a trasformatore, quando utilizzano. Se vuoi la comodità di uno piccolino che ti dà 50 ampere quanto una scatoletta di sigarette, veramente d'accordo, i televisori moderni sono tutti switching, tutti i decoder, che hanno potenze allucinanti. Però se parliamo di robustezza e di cose indistruttibili, tu un alimentatore a trasformatore di 50 anni fa, se costruito bene lo attacchi, dopo 50 anni funziona. E perché io quello che ho, quello da 2 ampere della GBC, ce l'hanno a dire poco, ce l'hanno una quarantina d'anni. Non lo sono anche dimenticato, ce l'hanno, sono messo lì l'altro giorno, stavo mettendo in ordine, ho trovato questo alimentatore, ho trovato questa busta, e poi cosa cavolo c'è qua dentro? Guardate, c'era l'alimentatore della GBC da 2 ampere, che io lo utilizzavo quando facevo, per dire, riparazioni a qualche apparato, se dove ci arrivavo mettevo microfoni, lo usavo sul tavolo, lo mettevo e riparavo, perché dove c'ho gli apparati viene male a lavorarci. Gli mettevo un'antenna con la base magnetica e con l'alimentatore lì, alimentava bene, l'apparato lo alimentava bene. Sì, no, sono, già vanno bene. Ok, Franco, riprendi tu adesso. Sentite a Franco come sta uscendo con quel microfono spettacolare. Franco, va! Però c'è una cosa, qui quegli alimentatori, sì, 30-50 ampere, ne ho anche io uno da 30, che compriamo dai cinesi, quella roba lì, quelli lì. Sì, li paghi poco Gianni, però il problema sai qual è? Che ogni tanto si rovinano subito quelli lì, si rovinano. E cominci, ne compri uno oggi, ne compri uno domani, e lì conviene prenderne uno buono e buonanotte. Lo paghi, ma è una spesa fatta bene. No, io dei cinesi non ne ho, io ho le 6 cose switching, non ne ho dei cinesi. Che ce l'hanno roba di 15 anni questi alimentatori, mi tocco ma non si sono mai rotti. Cappa, però infatti io ne ho comprato uno di quelli dai cinesi, quando lo lascio fermo, si abbassa di voltaggio, si abbassa, lo lascio a 13,8 e lo trovo a 12, lo trovo, ma lascia perdere. Oh, quelli dei cinesi è una cosa, quelli nesi, quelli switching sono un altro. Questi qui sono fatti proprio per questo tipo di lavoro e io non li carico apposta proprio per non sforzarli. Infatti c'ho un alimentatore per ogni apparecchio. Cappa, adesso ti mando la foto di quello che ho io già, e vedi com'è. Questo è uno 40 ampere, 45 di picco. Io ne ho uno da 50. E poi uno vabbè. Vabbè, adesso come mi ascolti che sto provando il turner? Ma dove? Sempre sul K? No, è l'SBS. Non ti ascolto bene, il segnale ti si è abbassato parecchio comunque, sei 9,15 adesso. Lo so, vabbè, questo è con molto meno basso. No, ti ascolto per che cosa? Che turner stai usando? Il più 3, quello sto grigio. Ma sei al massimo di volume? No, è a metà. Prova a salire per curiosità. Adesso è al massimo il volume, uno lo tra prova e l'altro prova radio. Aspetta, non parlare, manda solo portante. Canta roba di rumore di fondo, si sente di ventoline. Ok, no, abbassa un pochettino ritardo. Abbassa un pochettino, se no amplifica troppo. E mettiti magari un po' più vicino tu al microfono. Ok, così io l'ho aumentato, adesso cos'è a 7. Però sei un po' nasino, lo sai, è strano, ma è un microfono a me, è un più 3. Adesso ho messo a metà, sì, è il più 3, questo grigio. Ah, non è il più 3B quindi? No, più 3B non ne ho io. Ma non c'è più 3B pure, è quello nero. Oh, sai, il silver. Ma facciamo invece anche più 3B. Ok, stavo dicendo Gianni, Franco sta uscendo con un presidente l'MC60, l'avete sentito? Sì, l'ho sentito, va bene. Cavolo se va bene, non è la prima volta che lo sento su un baracchino l'MC60, ha diventato a 3 volte. Lo metto anche su Saturn Echo, l'ho visto io su quei forum DCB, con un Saturn Echo l'MC60, cazzo c'è una bomba, l'ho sentito, visto e sentito, c'è filmato. No, va bene, mi piace, va bene, la modulazione è molto naturale, dai, non è troppo pompata, mi piace tantissimo. Luca, ci sei ancora? Sono qua, sto facendo l'orario, oggi facevo appunto la mamma. gasolino. Se non mangi a luna, vieni a casa che ti do praticamente degli integratori da darle, in pastiglie. Te la metti in bocca e così lo praticamente è mangime in pastiglie, dai. E già non sta mangiando niente. E appunto per quello, le ho dato pastiglie, capito? Ma sono buon nuda, l'ultima volta darmi questa pastiglia, sono buon nuda. Le apri la bocca e le lo metti in gola, come fanno tutti. Già, però io gli ho detto una cosa importante. Tu li sugare. Già, prima di fare qualunque cosa, tanto il cane può stare anche una settimana senza mangiare, già non muri, che sono abbastanza resistenti. Se hai tutto, devi farsi l'analisi del sangue, si toglie tutti i dubbi per capire se è un'infezione o se è una cosa un po' più grave. Una volta fatta l'analisi del sangue, gli possono dire tutto quello che vogliono i medici, se ci sono delle necessità di antibiotici o di qualunque altra cosa, se magari è una cosa diversa. Ho capito, ma questo che vi sto a dire io non è una medicina, è un integratore a base di roba da mangiare, quello che mangiano i cani. Praticamente ci sono le vitamine integrate, le vitamine, proteine, quando non mangiano si danno, le l'ho dato io a Taiso, quando non mangiava perché c'era la gastroenterite e non mangiava nulla, e l'ho tirato su con quelle pastiglie. Sì, ma sapete cosa c'aveva già, se il cane adesso è debilitato, tutto strano, non riesce a tenersi in piedi, eccetera, eccetera, cosa lo fai? Soffrire, gli apri la bocca a forza per buttargli la pastiglia e magari poi ti rimette tutto. Conviene aspettare qualche giorno, nel senso andare da questi veterinari e dirgli fate l'esame del sangue, poi tanto da quanti giorni è così il cane, Luca? Da oggi. E appunto, già, sai, non siamo esagerati, non sarà uno, due o tre giorni di cosa senza mangiare il cane, già non è mai morto di cane. Il problema è capire cosa c'è effettivamente, perché magari l'integratore fa bene quando si deve rimettere in ordine il cane, che per dire gli sta dando la cura e gli aggiunge anche l'integratore, assolutamente è d'accordo, però se c'è un'infezione, una cosa gastrica, qualche cosa, e tu gli butti del cibo dentro, non so quanto può andare bene già. No, comunque Tyson ci aveva la gastroenterite e gli davano quelle pastiglie per farlo campare, quindi non fa nulla. C'aveva la gastroenterite e Tyson vomitava, diarrea, come il cane di Luca, la stessa cosa, era gastroenterite. Non so dove se l'abbiamo presa perché non mangia porcherie, gli do una fettina da mangiare con la pasta senza sale e appena appena un pugno di crocchette di quelle buone, non di quelle... Eppure si ha preso lo stesso la gastroenterite, c'erano un paio di cani sotto casa che si hanno preso tutti la gastroenterite, a quanto pare dice che hanno donato qualche cosa di qualche cane malato, capito? Sì, è batterica, magari doveva pisciare o fare bisognini, di lì ha leccato, hanno usato, è un batterio, può entrare in qualunque posto, anche se gli dà la migliore alimentazione del mondo. Purtroppo, quando si arrivano a prendere se la prendono la malattia, lui è... sono come i cristiani, si prendono diabete, ce n'era uno vicino a casa che aveva un io che sai, c'aveva il diabete, lo stesso di che spendeva per fare l'insulina, perché ai diabetici a noi ce la danno, a loro non ce la danno e quindi spendeva, mi pare che gli veniva 200 euro alla settimana che doveva spendere in coso, in iniezione. Scusate un attimo, vi devo lasciare, dai, non la mangiare, ci sentiamo. Buon proseguo, buon tutto, dai, ci sentiamo le prossime. Io faccio correttivo. Ciao Gianni, ciao Roberto, Luca e Coso. Tu mi metto, fai il nome del ragazzo, dai, comunque non hai capito. Ci sentiamo, riprendi Roberto. Riccardino. Cosa c'è? Vabbè. Aspetta, riprendo io, scusate. Stavo dicendo, Fra, mi faccio dare il tuo numero da Claudio, poi magari ne parliamo per telefono e vediamo di trovare una soluzione eventuale. È quella sulla cosa di prima, va bene? Va bene, dai, non ho un problema. Adesso vedo un po', questa settimana, a vedere, dovrebbe venire entro questa settimana. Poi vediamo, dai. Già ci sentiamo anche in radio, non è un problema. Vabbè. Ok, buon proseguo. Ciao, buon tutto, Fa, ben sentito. Dai, Riccardino per il saluto. Ciao, ben ascoltato e alle prossime, Franco. Sentiamo, comunque, cosa c'è Gianni che mi stavi chiamando? No, ho suggerito il nome a Franco perché non si ricordava il tuo nome. Come al solito tutti si dimenticano il tuo nome. perché non è un nome comune, quindi non te lo ricordi. Io mi ricordo Giacomino, tutte queste cose, tranne che Riccardino, infatti ti chiamo Alfa 21. Oppure io sono Robertino. Anche Giacomino. Giacomino, il secondo nome, il primo sarebbe Robertino. Ognuno diceva un nome, Roberto. Sì, Giulio lo chiama tante volte, l'altro giorno si è detto anche a te Giacomino, Giulio proprio gli viene spontaneo a Robertino. Io non me lo ricordo, non lo faccio apposta, non me lo ricordo, allora lo chiamo Alfa 21 quando non mi ricordo proprio il nome e cerco di spremere le meningi, ma no, a volte non me ne ricordo più. Ma a casa, Riccardo, come ti chiama tua mamma, tuo babbo, tua nonna, Riccardo o Riccardo? Sì. I tuoi genitori ti chiamano tuo babbo Riccardo, ma dico tua mamma quando ti chiama Riccardo vieni a mangiare o ti dice Riccardo? Oh, Ricci, tutti, Ricci. Ricci e Gian. Tua nonna, Riccardino? Ciao, tutti Ricci. Allora, vedi, Ricci come nominativo e la sarà parlato più facile. Ricci 21. Ricci 21, il nominativo ha lasciato qua per quello Alfa 21. Lo so, ma perché non ne avevo nominativi all'inizio, gli altri facevano scritto quello che pensavo e quindi ho preso il tuo. Ah, c'è un cane vicino che sta morsicando qualcosa, Rica. No. Chi c'è? Sentivo tipo qualcosa morsicando. Chi c'è, Rica, vicino? Morsicando? Ma perché non so? Nessuno sta morsicando. Senti, crascando qualcosa. O c'era qualcuno mettendo portante sotto? Portante? Io non penso nemmeno che subito. Ieri dice, chi è che me l'ha detto? Che non mi ascoltavano, che mi disturbava. Come parlavo io, tac, sempre portante. Alla fine ho detto, pazienza, vuol dire che gli sono antipatti. Sì, ti stavo mettendo la portante, ma la mettono a tutti, non è che sia tu singolo che la mettono solo a te. La mettono a tutti. Vabbè, io non ne ho mai messo a nessuno, non mi interesserebbe. Se ti devo dire qualcosa di brutto, cerco di dirlo in faccia. Neanche in radio, in faccia lì. Cosa, lo mettiamo sopra un modulato? Ho detto, se devo dire qualcosa di brutto o di male a una persona, neanche in radio glielo dico, dico, fatti trovare che te lo dico in faccia, è quello che ti devo dire, perché non fa, tanto meno in radio poi, che lo ascoltano tutti. No, io sono della bimba, io se ti devo dire una cosa te la dico, che sia in radio, che sia dove sia, te la dico anche in faccia, non c'è problema, ma se sono in radio te la dico in radio, se c'è una cosa che non mi va bene. Tutto lì, se ti devo contraddire ti contraddico, roba, io ti dico chiaro e tondo. No, io sto parlando di dire parolacce, ma è girato, a me non mi sentirai mai in radio. Vabbè, e invece a me mi hai sentito l'altro giorno perché sono scoppiato. Ma con chi? Con una persona. Ma adesso è tutto finito, quindi non voglio rimandare niente. Avanti break. E chi è questo qua passo? Flavio, c'è massissimo di radio, segnale 9 più 10, ma il radio è quasi zero, mi fa. Abbia radio perché non ti sento, di radio non ti sento, di segnale sì, ma di radio, si basta anche di segnale, l'altro giorno arrivavi 9, Claudio, ben sentito comunque. Sì, però sei bassissimo di radio, il segnale è forte, la radio è 5, però sei basso, cioè devo sollevare il volume per sentire. Come fai a darvi 5 di radio quando non si intende, boh? No, lo sento basso, però la radio è chiara, il segnale è forte, più di 9, però è bassa, rispetto a voi devo avvicinarmi al tuo parlante. Io la radio 5 la do quando è chiara, la radio quando si sente bene, non quando è bassa così. Allora, il discorso della radio, già, se la radio 5 quando la radio è perfettamente comprensibile, lui è perfettamente comprensibile però è bassa, se invece è meno comprensibile si va a scalare in basso, dai. Io l'ascolto perfettamente, però è troppo basso, devo sollevare il volume per ascoltarlo, se per dire tutti eravate allo stesso volume, l'intensità, al cavo dicevo sì, siete tutti uguali. No, vieni a casa a ascoltarlo, se l'ascolti come dici tu, lo ascolti perché sei lì vicino, ma qua a casa si ascolta il segnale e basta. La radio è come se fosse il livello QRM, se viene un piccolo rumorino non si sente più. No, ma lui il rumorino non ne ha perché non si porta presso niente, ti ripeto è più di 9 di radio, 9, quasi 9 più 10, però la radio è bassissima, devo alzare il volume, vabbè non l'ho alzato perché c'ho l'altro parlante vicino, ma rispetto a voi è come che tu stai strillando e lui sta parlando sottovoce, la differenza è quella, però l'ascolto bene. Vediamo Riccardino se l'ha ascoltato, avanti. Sì, ciao, che ho raggiunto, ben ascoltato Claudio, anche a Gianni che in ascolto, sì, sei basso proprio, se ho capito bene stai provando un altro baracco. Allora cambiamo però il microfono, mettine un altro. Secondo me quella capsula microfonica si è danneggiata, probabilmente non sta vibrando come dovrebbe vibrare, e per cui non riesce a erogare la modulazione. Sono sicuro se tu cambi il microfono avrai alla grande molto molto più forte. Comunque metto un Summercamp, non conosco il modello, ma cos'è, un base o un veicolato? Quello che usavo è macchina KP2, quello lì. 80 canali, quindi c'ha due bande. Comunque fai una cosa Claudio, siccome c'è un po' di difficoltà rispetto di segnali, non dico di segnali, di livello di modulazione, rimettiti un baracchino adesso che ti possiamo ascoltare tutti bene e poi magari le prove si fanno un altro momento con un altro microfono. Così sentivo quello di Oristano l'altro giorno io. Hai ascoltato anche tu quello di Oristano? Sì, lo ascoltavo basso come sta ascoltando a lui. Claudio lo ascoltava bene, ma io lo sentivo basso basso di radio, capito? Anche di segnale era basso per me. Però lo ascoltavo, a volte percepivo le parole, a volte non le percepivo, era così, un po' così, dai, non era un collegamento. Lo ascoltavo, sì. No, Claudio mi ha fatto vedere il video, cacchio, io non c'ero, non posso dire perché non ho avuto la possibilità di ascoltare, di trasmettere, né di vedere, perché non c'è, ma proprio mi ha fatto sentire il video, arrivava veramente forte Claudio, ma lui lo riceveva forte, cavolo Santiago 9 mi sta arrivando, non è possibile, e anche Claudio lo riceveva forte, probabilmente c'è un passaggio, non lo so, infatti avrei voluto vedere io come l'ascoltavo dalla mia posizione. Claudio è in alto, cazzo, c'è poco da fare, è un altro grattacielo, supera tutti gli ostacoli, è normale che può arrivare più diretto di noi. Che è oggi? Buonasera a tutti! Che molti da sottoterra si sono rivoltati. Avete sentito? Ah ok, c'è anche Gianni Doppio Rumo, Riccardino e poi Claudio Ramuro, però probabilmente non l'ascolti perché è in condizioni disagiate. Avanti Gianni per cosa? Per Eugenio. Ciao Eugenio, buonasera, dai. Di rientro, bello stanchino sarai. Ti rilascio Riccardo, vai Riccardo per Eugenio. Ciao Eugenio, ben ascoltato, mi fa piacere di ascoltarti ascoltarti. Riccardo Cordi di Oppardo. Riccardo adesso con che apparato stai uscendo? Adesso esci un bel bene. Adesso sono con il K perché c'era Eugenio, così mi sentiva meglio. Esci preso con questo apparato, altro che nasina, con un po' compresso come c'è la potenza, normale, ma non è nasina, no? Ma prima avevo un altro apparato. Cosa? Ne ha cambiato tre di apparati, Riccardo. Ho capito, ma stasera gli hanno detto che era nasina questa modulazione che sta usando adesso. No, è bellissima, chi l'ha detto? Io, chi l'ha detto non è importante. Mi hanno detto che era nasina e io gli ho detto che non era nasina, che era compresa dalla potenza dell'apparato, ma non è nasina, è bella chiara. Oggi fammi sentire tu invece di più. Perché venduto l'hai, come si dice, quello che ci avevi, venduto l'hai, con Oggi. Col proxy, non riesco a farlo andare, vedi? Ah, i collegamenti non riesci a fare. Sei portalo lì, sì, ok, te lo faccio, 5 minuti. Adesso sto lavorando, non ho tempo. E beh, oggi è un bel di gente scaricato. Da stamattina si vede che sono aperto il sentiero, ragazzi. Stamattina è scesa tantissima gente. Adesso iniziano ad arrivare i turisti. Ok, vediamo se Claudio Ramuro se c'è ancora, avanti, si è cambiato la parola. Ciao Eugenio, alle prossime. Ciao Eugenio, ben sentito, dai, ci sentiamo quando sei in condizioni più favorevoli. Adesso Claudio c'è una bomba, sta uscendo benissimo, bella modulazione, segnale ottimo. Ciao Eugenio! Adesso c'è tutta un'altra cosa, allora con l'apparato là sicuramente c'è la capsula del microfono che non serve più, sarà partita sicuramente. Quello lì è quello che usava tuo padre in macchina, se non erro, vero? a te, se mi ha salutato, saluta Eugenio, se mi ascolta ancora, perché forse ho parlato sopra. Ci sei Eugenio? Vabbè, dai, tanti saluti. No, questa è bellissima la radio, però che importante è anche il microfono, oltre che l'antenna, se non c'è il microfono, quello lì si è incollata a membrana della cazzo, mettilo a parte, tanto non c'è niente da fare quando avranno quei problemi, proprio non sta vibrando, non oscilla, per cui non va bene. Mettici un M93 che va più che bene. Questa è bellissima, che radio è questa? Un micro? Il segnale forse questa è leggermente più bassa, quasi, quasi 9,5, quell'altra 9,5, però la radio è spettacolare, veramente bella, pulita. Ok, c'è anche Riccardino, vai Riccardo per Claudio. Ehi a Claudio, no, già sta andando bene, rispetto a prima la modulazione è molto più bella con questo Midland. Ehi, riprendo io e faccio girare per Gianni. Ma scusa Claudio, se ti dico una cosa, che bisogno c'è di mettere il lineare? Ti ascoltiamo tutti benissimo, sei perfetto, perché magari anche il lineare deteriori la voce, io ti ascolto pulito, perfetto. Radio, se c'è una valutazione ti do 10, pulita e perfetta. Non è così Roberto, va bene anche con lineare, in certi punti non arriva se non c'è lineare. Sì, infatti dico, visto che ti ascoltiamo tutti perfettamente, naturalmente se c'è gente più lontano al via del portatore, se non attacchi non ti sentono, però qua io non noto nessuna differenza con o senza lineare, si alza solo il segnale, però la radio è sempre bella e pulita. Ok, che modello era? Mi ha detto del Midland, che me lo guardo su internet. Però me lo cerco su internet, non lo conosco, perché io c'ho un stazione base della Midland leggermente inclinato nero, però c'ha il 3104 mi sembra che sia, non Midland, niente che sto dicendo fesserie. Guardando se c'è, mi ha detto 78574 il modello, buh, e c'è su internet questo, allora sarà Intec per caso, marcato Intec, ho scritto Midland 78, CB Midland 78574, non mi fa vedere niente, e sono proprio sulle immagini, buh, sto provando, riprendi tu Gian. Lo sto guardando io, lo stanno aggiustando, cioè senza la parte di sopra, 58 o 700, l'ho provato. Ma 58 o 78? 78 5 7 qua. Adesso ci riprovo. Aiuto, dai a me. Poi mi chiama il toppero e gli faccio una proposta. Vabbè, era una battuta. Come ti chiama la radio? Se ti faccio una proposta, me la dai. Avete parlato in due. Ehi, ehi, ehi. Ehi, è bellina, mi piace, sì, è bellina. È semplice, ma è bellina. Allora, se lo fa una persona che lo sa fare, non lo rovina. È come se fosse normale, perché io ce l'ho con canali, doppio modulatore e cose. È sempre andato bene, non ha mai dato problemi. E i gusti sono gusti, ma io non le avrei cambiato il colore, per dire, non le avrei mai cambiato il colore esterno, che è originale. E vabbè, i gusti sono gusti, dai. E quello ce l'aveva Agostino Ago, non lo so se sia quello suo. Agostino che adesso è morto, Ago, è modulato. Ah sì, la volta che ha fatto la caspa Antonello a casa sua, che avevo preso lo Schuller, il microfono. È esagerato, ma non hanno lo stesso valore, no? E ma ti stavo dicendo, tuo padre aveva una radio bellissima col 440, era l'unica volta che lo sentivo uscendo bene. Era adatto, usciva un bel bene, Roberto, te lo ricordo. Sì, volevo fare una domanda a Claudio. Ma questa radio, io sto guardando su internet, quello che c'ha, dove ci sono i potenziometri bianchi, c'ha le cacatine in legno laterale. Oh Claudio. Quella che ho visto io, Robe, è praticamente il manco prova, la sta facendo un tecnico, c'ha, mi manca il coperchio. No, ce li ha tutti cromati, tutte le manopole cromate. No, non mi sono spiegato. Allora io qua ho trovato Midland 78-574 SSBAM base, c'è l'autoparlante frontale, è un colore grigio tipo il come si chiama, l'ANA 48, e poi sotto dove ci sono i Mickey Gain e cose del genere c'è un frontalino bianco e c'è le sponde laterali, lo fanno identico marchiato tram, che tram è il baracchino, mi ha detto Walter, è il baracchino più grande che c'ha lui, e c'è anche Marco Scorpio, è più grande del DAC, mi ha detto il baracchino più grosso che c'è, perché qua ce n'è uno, lo chiamano Bizarre 78574 ed è una bestia enorme, è più grande del DAC, infatti mi ha mandato le foto Marco Scorpio. Come comparazione il DAC è enorme perché è alto e grosso, però quello lì è più largo, quasi 80 cm, qua io non l'ho trovato, mandami una foto per curiosità, c'è l'autoparlante frontale, ma non è uguale al mio, quello nero allora, al 3104, è origine bianco quello, non lo conosco, adesso non ce l'ho presente, guarda, talmente l'ho preso l'altro giorno e non mi ricordo come l'ha.